Grazie tantissimo, Malachi, è stato molto, molto interessante. Grazie. Se volete una copia della mappa, poi ve la posso passare in inventory. O la lascio da qualche parte, ok? Ringrazio tantissimo Malachi per il suo intervento, che è sempre una persona che riesce a spiegare con semplicità, per capire anche lui le cose con parole di tutti noi. E tra l'altro ha utilizzato lo strumento delle mappe mentali, che è una cosa che ho sviluppato per l'anno e siamo, è un piacere per tutti quelli che si sta diffondendo. Tra l'altro è partito proprio da lui l'idea di visualizzare la conoscenza in questo mondo 3D. Ora la parola, chi vuole la parola per parlarci della singolarità? Perfetto, Vitek, a te la parola. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, Vitek. Perfetto, buonasera. Grazie della parola, ringrazio tutti di questa bellissima occasione, ringrazio soprattutto Davy Orban, qui sembrerà quasi una captatio benevolenze, ma non lo è, perché io non conoscevo la singolarità, e invece vedendo un suo video che fece all'Università di Milano, ho scoperto questo argomento e ho frequentato il suo gruppo, e piano piano ho scoperto tantissime cose. Il mio intervento, spero di essere quanto mai breve e di poter condividere con voi queste mie conoscenze che ho acquisito in questi mesi. Sarà centrato soprattutto sulle AGI, sulle Artificial General Intelligence. Entrerò un pochettino nel dettaglio perché personalmente, per gli studi che faccio e per il mio modo di essere, voglio sempre vedere un pochettino i meccanismi che sono alla base di questo mondo e di questa tecnologia e di questo sistema. E tra le altre cose voglio anche che si avveri, sono sicuro, ho fiducia nella singolarità, ma è certo che ricercare e comunque sforzarsi sempre di più nella costruzione di un'intelligenza artificiale generale è una affermazione che si autoavvera, è un qualcosa che amplifica enormemente quel segnale debole di cui si è detto. E partiamo dal termine, anzi partiamo più che altro da un'immagine che vi volevo dare. Credo che tutti abbiamo in mente, è stato un po' quello che mi ha fatto scoprire l'intelligenza artificiale prima ancora che la parola singolarità venisse usata, un bellissimo film che è War Games, credo che tutti o la maggior parte di voi l'abbiate visto, e c'è una famosissima scena in cui si vede un computer che si chiama WOPR. Questo computer elabora un programma giochi, ma è un computer intelligente, è un computer che praticamente è stato progettato appositamente per risolvere problemi. Nel caso particolare di War Games, come dice la parola, vincere la partita, cioè distruggere il nemico, e in quel caso, ahimè, ci si trova in una situazione un po' particolare, perché tenta addirittura di lanciare i missili. Io lì per lì non ero un ragazzo, avevo avuto 15-16 anni, ho capito la bellezza e il mondo terribile dell'intelligenza artificiale, e me ne sono, ho incominciato ovviamente a occuparmene o comunque a studiare l'argomento. Si è iniziato a parlare tanti anni fa di intelligenza artificiale in termini sempre più generici, con il mito praticamente di un'intelligenza, di una superintelligenza, di un ente, di un computer, molto spesso nella letteratura visto come qualcosa di negativo, o pensiamo a film come Terminator o altre cose, o altri film di questo tipo, una intelligenza cattiva. In realtà c'è una forte parte della singolarità, o comunque dei transumanisti, o comunque di un gruppo di persone che dice che in realtà l'intelligenza artificiale e lo scoppio che avrà di questa superintelligenza può essere guidato, e l'intervento che l'uomo fa nella costruzione delle AGI è importante per guidare queste intelligenze. Spomeniamoci per un attimo, che cosa sono questi aggi? Io, è una mania un po' degli scienziati e dei tecnici o comunque degli informatici mettere un po' di acronimi dappertutto. Avrete sentito Artificial General Intelligence, ma in italiano vuol dire intelligenza artificiale generica o generale, generale è un po' improprio, preferisco generica, cioè la capacità di questi sistemi, chiamiamoli così, di risolvere problematiche complesse in un universo complesso. Questo lo distingue nettamente da la cosiddetta IA debole, l'intelligenza artificiale debole, e si rifà al grande discorso dell'IA forte, cioè di quell'intelligenza che vuol comprendere, vuole avvicinarsi sempre di più e addirittura superare quella che è l'intelligenza umana. Attualmente gli esempi che faceva David, molto giustamente, sono esempi di IA debole. L'IA debole viene usata ogni giorno. Chi ha un Palm, chi ha un computer Palm o qualsiasi palmare, scrive le lettere e il computer automaticamente le converte in testo. Chi usa un OCR, i normali programmi che vengono utilizzati negli scanner, e mette il proprio foglio, questi programmi hanno la capacità di selezionare singola parola per singola parola, addirittura non solo di caratteri scritti, ma anche di autografi di persone che praticamente scrivono a mano, quindi in maniera ovviamente più complessa di un carattere stampato, e riescono con buona percentuale a capire. Come fanno? Io me lo sono domandato e ho cercato di capire, oltretutto lo faccio anche per mestiere, e quindi sono andato a vedere quali sono le problematiche. Si usa sistemi di intelligenza artificiale. Nel caso specifico si parla di cosiddetti di reti neurali. Le reti neurali sono degli oggetti, in realtà matematici, che però sono stati creati su imitazione della mente umana. Avendo scoperto i neuroni che sono la base, le cellule base del nostro cervello, e comprendendo come essi funzionano all'interno della nostra mente, si è voluto rifarlo in maniera matematica. E vi posso garantire che io, all'inizio, cioè nel senso non conoscendo moltissima la matematica, ho capito il meccanismo in maniera molto semplice, perché assemblando più neuroni riesco a avere sistemi sempre più complessi e dunque sempre più intelligenti. Una rete neurale multistrato, cioè formata da più strati come il nostro cervello, no? Che è formato da tanti strati di neuroni, addirittura con neuroni con diversa specializzazione, riesce poi a essere più intelligente e a fare vari compiti. E faccio un'ipotesi, le reti neurali sono state utilizzate nei campi più diversi. Prima ancora però non si utilizzava questo approccio, grazie Grabs, perfetto, a tre strade, anche detto a MLP, Multilayer Perceptron, perché questo è il nome. Poi adesso non entro nel dettaglio, per chi vorrà, ho tantissimi riferimenti, perché è un argomento molto interessante di cui si trova tantissima documentazione in rete, anche in italiano. E prima ancora però dell'avvento del cosiddetto connessionismo, cioè della concezione appunto di neuroni che tra di loro potessero comunicare informazioni, come avviene nella nostra mente tramite le sinapsi, e si era partito invece da un discorso molto più generico, con i cosiddetti sistemi esperti. I sistemi esperti funzionano sulla base di principi di logica. La logica che utilizziamo, al limite anche si è partita dalla cosiddetta logica aristotelica, il famoso Zenone, o anzi in quell'epoca l'episodio era Socrate, Socrate è un uomo, tutti gli uomini sono mortali, ergo Socrate è immortale. Questa cosa che sembra apparentemente semplice ci pone sulla base della logica e poi si sviluppa tutto un sistema molto complesso, ma che comunque si nutre di queste regole. Potremmo dire dei semplici if-then, cioè se ottieni qualche cosa, se c'è una condizione logica che io voglio far verificare, otterrò qualche cosa. E ci sono sistemi, ad esempio faccio un accenno al cosiddetto sistema MyChin, che è addirittura del 1978, se non sbaglio, sì, 78, il quale con queste semplici regole aveva creato un sistema esperto in grado probabilmente di aiutare le persone, in questo caso i dottori, nella giusta attribuzione del medicinale da utilizzare per una cura, per una praticamente venivano fatte alcune domande specifiche, ad esempio se il batterio era gram negativo o gram positivo, non entro nel dettaglio, c'erano altri parametri tecnici, e con un sistema di questo tipo il sistema esperto dava la probabilità. Si è falso, ovviamente si sono fatti dei controlli perché non ci si fidava, e David Orban, e questo ha portato a sistemi esperti appunto che potevano aiutare. Questa è la storia in brevissimo di quello che è l'intelligenza artificiale. Perfetto, ho capito Davide. Ovviamente questo discorso si è andato evolvendo ed è ritornato in grande auge dopo la singolarità, il discorso invece di un sistema ancora più generico, ancora più potente di questi. Come vedete, gli esempi che ho fatto sono molto particolari. Sistemi esperti, reti neurali, quindi intelligenza artificiale debole. In realtà oggi si parla di AGI, cioè di sistemi più complessi che, come la mente umana, possono risolvere più problemi. E vi parlerò di quelli che sono gli attuali, non più sistemi deboli, ma sempre più forti, sempre voci, sempre più che gridano, diciamo, il loro avvento. Nel caso specifico vi tratterò brevissimamente di tre AGI attuali, quindi di tre sistemi di intelligenza artificiale generica moderni, contemporanei, che stanno cercando appunto di ottenere questo target. Nello specifico sono, perdonatemi, prendo un attimo. Il primo è sicuramente il più famoso, che con Malachi abbiamo citato mille volte, che speriamo David riuscirà in tutti i modi a cercare di convincere di portare il loro sistema qui all'interno di Vulcano, è il sistema Novamente. Il sistema Novamente è appunto un AGI moderno che è fatto in maniera, come vi dicevo, più complessa all'interno, esattamente, novamente.net. Il sistema Novamente è, brevissimamente, è una cosiddetta PsyNet, cioè praticamente una rete al cui interno esistono tanti lobby a imitazione del cervello umano che fanno cose differenti. C'è un sistema, un analizzatore sintattico, per cui addirittura gli si può parlare in inglese e il sistema comprende. Il sistema può prendere decisioni autonomamente e si basa sulle cosiddette reti bayesiane. Non vi dico, vi do solamente alcuni flash, poi se vorrete potremmo approfondire, cioè su particolari tipi di algoritmi di tipo probabilistico che vengono utilizzati per risolvere questi problemi, e quindi hanno capacità sempre più più potenti. Il secondo esempio che vi faccio, a questo punto ne taglio uno per questioni di più che altro di praticità, è il sistema SOAR, che sto studiando per un mio piccolo progetto. Come alcuni sanno, io ho un piccolo bot che piano piano sto cercando di implementare, e ho deciso che questo AGI, che si chiama appunto SOAR, vi do l'indirizzo brevissimamente, è un AGI ancora più aperto, cioè nel senso è una piattaforma che è stata creata in un'università per poter così implementare il proprio sistema. E il sistema SOAR... sì, e anche questo, perdonami Gabris, se qui c'è addirittura proprio il software da poter scaricare. Anche questo si basa su un sistema ibrido a questo punto, cioè un sistema a reti neurali e un sistema poi concettuale, che praticamente usa la logica. È possibile implementarlo direttamente e poi interfacciarlo, lanciarlo come agente intelligente a questo punto, nella risoluzione di più progetti. O di più target, quindi di più obiettivi. Ma la cosa interessante è che ovviamente io lo posso programmare, ho quelle che sono le primitive base del ragionamento umano, e quindi a questo punto posso inventarmi o comunque posso costruire qualunque tipo di comportamento io voglia, per avvicinarmi sempre di più a questi sistemi. Finisco, perché adesso ho 0 minuti, e dicendo solamente il futuro. Il futuro è un'incognita, certo, ma secondo la singolarità è un qualche cosa che si autoprofetizza, e quindi questi progetti ce lo segnalano. E vi dico solamente questa cosa: nel 2008, su questo sito, che praticamente per non sbagliare finestra, è l'Artificial General Intelligence Resource Institute. Praticamente si metterà, verrà fatta la prima conferenza degli AGI, di tutti gli AGI al momento esistenti sulla rete, per vedere quali sono le prospettive future e qual è la loro amplificazione. Quindi è d'obbligo investire nella ricerca tecnologica avanzata, per fare in modo tale che quella singolarità tecnologica di cui sicuramente abbiamo una forte fede, si avvererà sempre di più.